Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Allora, dopo il nostro Parlamento alle 6:30, continuiamo e vi ricordo che oggi parleremo un po' delle proposte economiche del Movimento 5 Stelle, che secondo alcuni sono realizzabili, secondo altri sono infattibili, sono irrealizzabili, comporterebbero una spesa enorme. Ne parleremo con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni e ne parleremo con Maurizio Pallante, che è presidente del Movimento per la Decrescita Felice. Questo alle 8:30, che spesso è stato associato a Beppe Grillo, anche se poi scopriremo non è proprio così. Sarà nostra ospite alle 8:15 invece Livia Turco, ex deputata, che è finita in una bufera di polemiche per la sua riassunzione al Partito Democratico. Tutto questo dopo, ora appunto i giornali in edicola. Allora, i titoli intanto: Draghi rassicura sull'Italia, così apre il Sole 24 Ore, il presidente della BCE, nessun contagio, le riforme italiane vanno avanti. E poi quasi tutti i quotidiani aprono sulla condanna a Silvio Berlusconi a un anno per il famoso caso del Nastro Fassino Consorte. Poi spiegheremo di che si tratta. Si riapre il caso Giustizia, così titola il Corriere della Sera. Per Repubblica invece Unipol, Berlusconi condannato. Per la stampa, l'ira di Berlusconi subito al voto. Il Messaggero, un anno a Berlusconi, ira del PDL. L'Unità, il nastro della vergogna. Il Giornale, i PM fanno pagare a noi la banca della sinistra. Libero, abbiamo una carognata. E ovviamente fa il verso al testo di quel nastro, abbiamo una banca. Condannato l'ira di Berlusconi anche per il secolo XIX, mentre il Fatto Quotidiano mette in prima pagina un'altra vicenda giudiziaria, trattativa Stato-mafia, maxi processo a Palermo. Avvenire invece uno sguardo alla Corea del Nord, dunque agli esteri, la follia del terzo Kim, la Nord Corea dei Gulag minaccia attacchi nucleari agli Stati Uniti. Mentre donne in camera. Questo è il titolo del manifesto in occasione dell'8 marzo, mai così tante donne in Parlamento, ma anche mai così tante senza lavoro e mai così tante vittime della violenza maschile. Così la prima pagina del manifesto. Allora, a proposito di Livia Turco, il Fatto Quotidiano fa sapere a pagina 6, tra l'altro Livia Turco ci spiegherà, credo, ha fatto ieri un comunicato che c'è stato un po' un dietrofront perché verrà riassunta sì dal partito, ma lo farà a titolo gratuito. Ma scrive il Fatto Quotidiano che i democratici in realtà hanno riassunto 9 dirigenti. Non c'è solo il caso di Livia Turco, ma anche altri 8 funzionari sono stati riassunti dal Partito Democratico poco prima delle elezioni, un modo per assicurarsi il futuro nei venti imprevedibili della politica. Così lo leggo dall'articolo di Wanda Marra pubblicato a pagina 6. Alla fine Livia Turco deve essersi resa conto che la riassunzione nel PD non era politicamente sostenibile, non con una liquidazione da 241.000 euro e un vitalizio da 5.000 euro in arrivo tra 2 anni. Non sono un'esodata di lusso, aveva detto l'altro ieri, però durante la direzione nazionale c'era stata la denuncia di questo dirigente del Partito Democratico che ha detto. Lo dicevamo anche ieri, ho stima di Livia Turco, ma prima si sistemi la questione esodati. Insomma, il risultato è che Livia Turco pare lavorerà gratis per il partito. Ma appunto, ci sono oltre a lei riassunti in 2 parlamentari in aspettativa della vecchia Margherita, Alberto Losacco e Nicodemo Oliverio, e in 7 dai DS, tra questi Gianni Cuperlo, Oriano Giovannelli, Walter Verini, Vinicio Peluffo. Insomma, vari dirigenti che sono stati riassunti dal partito, scrive il Fatto Quotidiano. Quindi la polemica che non si ferma. Oggi 8 marzo, allora vi voglio segnalare un articolo che c'è sul secolo XIX, la coincidenza non è casuale, un assessore del comune di Genova ha lanciato una sfida, che è questa: sui muri di Genova basta donne oggetto per fare pubblicità. L'articolo è in prima pagina del Secolo, Daniele Altimani. Il comune di Genova vuol mettere al bando la pubblicità che usa il corpo femminile intero o a tranci, ovviamente tra virgolette, come un oggetto, e quello che umilia la donna trasmette messaggi offensivi di discriminazione e di violenza di genere. Lo ha detto Elena Fiorini, assessore comunale ai diritti. Premettendo, non siamo né bacchettoni né censori, non vogliamo vietare tutte le immagini con qualche centimetro in più o in meno di pelle scoperta, ma per fare un esempio, c'è una risoluzione europea alla quale vogliamo uniformarci che boccerebbe una pubblicità affissa in queste settimane in alcuni quartieri di Genova, io l'ho vista anche a Milano per la verità, in cui c'è una donna in reggiseno borchiato in pelle nera, trucco marcato, e l'annuncio: sono pronta a entrare in politica. Ecco, questo è il tipo di messaggio che fa sapere l'assessore di Genova, denigratorio della dignità femminile, sicuramente cinico, ingiusto nei confronti delle tante donne, belle o brutte, che la politica la fanno anche meglio degli uomini, senza usare il proprio corpo. Ed ecco, questo è il tipo di pubblicità che vorrebbe l'assessore togliere. Vorrebbe, perché in realtà è una dichiarazione di intenti, per il momento non c'è nulla di definitivo, neanche una proposta al riguardo. Basta manifesti che offendono le donne. Questo però di tanto in tanto, per la verità, torna questa vicenda, casualmente torna il giorno dell'8 marzo, la trovate in prima pagina del Secolo XIX. Voglio darvi una segnalazione molto interessante che proviene dall'estero, da Mosca, perché mi aveva molto anche turbato questa vicenda del capo, il responsabile, il direttore del Kremlin, del Bolshoi, del celebre teatro di balletto, il Bolshoi, a Mosca, che era stato sfigurato dall'acido in volto, un'aggressione stranissima. Ebbene, ora è venuto fuori che era tutta una questione di invidie, gelosie e liti interne. È stato infatti arrestato uno dei più importanti ballerini russi, Pavel Mitrichenko, ed è lui che ha accusato di avere ordinato una persona di sfregiare con l'acido in volto il direttore del Bolshoi. Perché la colpa del direttore del Bolshoi non avrebbe scelto per la parte principale una ballerina che era la fidanzata di Mitrichenko. Un cigno nero nel giallo del Bolshoi, vi sottolineo e vi segnalo questo bell'articolo di Fabrizio Dragosei sul Corriere della Sera che riepiloga tutta la vicenda, lo trovate a pagina 27. Il direttore sfregiato per aver rifiutato la parte a una ballerina. Scrive Dragosei da Mosca: una cosa dovrebbe essere interpretare sulla scena il malvagio zar Ivan il Terribile, oppure lo spirito maligno del Lago dei Cigni; altra decidere di punire un rivale facendolo picchiare o addirittura incaricando un sicario di gettargli in faccia l'acido solforico concentrato. Pavel Mitrichenko, rinomato ballerino solista del Bolshoi, non aveva forse ben chiara la differenza tra realtà e finzione quando affidò a un suo amico il compito di dare una lezione al direttore del balletto Sergei Filin. D'altra parte, come ha ricordato un'altra star del celebre teatro, di Liara Timirgasina, Mitrichenko minacciava sempre tutti come se fosse veramente Ivan. E il ballerino in interviste recenti aveva detto di apprezzare molto il ruolo che Ivan, lo zar, il terribile, aveva avuto nella storia. Ancora oggi, aveva detto, traiamo benefici dalle sue severe misure. Ed ecco qui, secondo l'accusa, Filin si sarebbe rifiutato di concedere il ruolo primario nel Lago dei Cigni alla compagna di Dmitrichenko, Angelina Voronzova. E da questo è nata questa terribile vendetta del primo ballerino del Bolshoi. Beh, è una storia davvero incredibile che ricorda appunto qualcuno il cigno nero, il film, tanto che viene messo nel titolo un cigno nero nel giallo del Bolshoi, dell'articolo del Corriere della Sera. Una storia tragica ma ben raccontata da Fabrizio Dragosei, ve la segnalo sul Corriere della Sera. Ci fermiamo, la pubblicità e il meteo, e poi ci rituffiamo nella politica e nel tormentone della giustizia dopo la condanna a Silvio Berlusconi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:35 minuti, il tema giustizia, come avete sentito dai titoli di prima pagina dei giornali, torna prepotentemente alla ribalta, perché ieri c'è stata la condanna in primo grado a Silvio Berlusconi e anche a Paolo Berlusconi, anche se quella che fa più notizia è a Silvio Berlusconi, per la famosa intercettazione, quella del abbiamo una banca. Poi Fassino oggi fa una serie di interviste in cui dice si è tolta la parte successiva in cui ho detto beh, uno scherzo a consorte, siete voi che avete una banca, noi non c'entriamo nulla. Comunque, in quella intercettazione, che fu, era un'intercettazione non agli atti, quindi fu trafugata dalla procura di Milano e portata a Silvio Berlusconi e poi fatta ascoltare e poi uscì anche sul giornale. Berlusconi condannato a un anno per il nastro di Fassino e consorte, leggo l'articolo di Luigi Ferrarella, pagina 2 del Corriere della Sera. Dal produttore, un infedele ausiliario della procura di Milano, al consumatore, il politico ed editore Berlusconi, di intercettazioni segrete non depositate, non trascritte, non penalmente rilevanti, poi usate sul suo quotidiano contro il proprio avversario politico, il segretario di S. Fassino. Da ieri una sentenza di tribunale afferma che in Italia è successo anche questo e che il quotidiano del fratello dell'allora presidente del Consiglio, diretto allora da Maurizio Belpietro, cioè il giornale, pubblicò negli articoli a firma Gianluigi Nuzzi del 31 dicembre 2005 e 2 gennaio 2006 un'intercettazione trafugata tra le 13.000 non ancora depositate dell'inchiesta sulla tentata scalata di Unipol a BNL. Telefonata in quel momento non soltanto segreta, il deposito avverrà dopo mesi, neppure trascritta, ma esistente solo nel file audio che proprio l'amministratore della società privata operante le intercettazioni per conto dei PM, cioè Roberto Raffaelli, ha confessato di avere duplicato e recato in dono d'ascolto natalizio ad Arcore ai fratelli Silvio e Paolo Berlusconi. Li ha fatto ascoltare sotto un albero di Natale argentato dentro un computer portabile alle 7 di sera del 24 dicembre del 2005. Per questo i giudici hanno condannato l'ex premier Berlusconi a un anno e il fratello Paolo a 2 anni e 3 mesi per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio, con un risarcimento anche di 80.000 euro al sindaco di Torino Fassino. Le reazioni: è una persecuzione intollerabile, così Silvio Berlusconi. Per la verità c'è un comunicato, una persecuzione intollerabile che dura da 20 anni, si ravviva ogni qualvolta ci sono momenti particolarmente complessi nella vita politica del paese. Questo è il comunicato di Silvio Berlusconi. Chi l'ha sentito, come racconta anche il giornale, sono retroscena questi di chi gli è vicino. Ad Alberto Signore, per esempio, a pagina 3 del giornale: continuano a dirmi di stare calmo, avere pazienza, ma più lo faccio e più mi danno addosso. No, così non sono più disposto ad andare avanti. Questo Silvio Berlusconi, che rimane inchiuso nel suo fortino ad Arcore, anche perché il medico gli ha prescritto 7 giorni di riposo assoluto per questa fastidiosa congiuntivite. Ma avrebbe detto Berlusconi: sono ben conscio che anche nei prossimi appuntamenti giudiziari non vi sarà spazio per le doverose assoluzioni che dovrebbero essere pronunciate nei miei confronti. Solo in Cassazione sarà possibile, come è accaduto puntualmente, ottenere giustizia. Poi c'è questa frase riguardo all'accusa di aver violato il segreto istruttorio per cui è stato condannato. Il Fatto Quotidiano ha pubblicato di recente un mio interrogatorio con Ingroia, al quale non era presente neanche un cancelliere e non è successo un bel nulla. Cioè, dopo 24 ore la trascrizione dell'interrogatorio arriva a un giornale e sono io a essere condannato per rivelazione di segreto d'ufficio. Una vicenda intollerabile, ridicola, surreale. Così Silvio Berlusconi. Vabbè, la frase che trovate di più è l'intollerabile persecuzione anche per Repubblica. Liana Milella, nel retroscena, pagina 3. Ha avuto la matematica certezza che sarebbe stato condannato con 24 ore d'anticipo quando gli hanno detto che un'intera seduta del CSM era stata dedicata a lui per criticare aspramente i suoi paragoni sulla magistratura come mafia e cancro. Ecco, Berlusconi lì ha maturato la certezza, scrive Repubblica. Il brutto segnale è arrivato da Roma, il CSM si occupa di questo, il giorno dopo la sentenza dei magistrati. Ora, tra l'altro, questo ha riflessi politici, perché raccontano tutti i giornali: Berlusconi a questo punto sarebbe tentato di dire facciamo di tutto per andare alle urne, tornare alle urne più presto possibile. Sulla prima pagina del giornale il direttore Alessandro Sallusti firma un editoriale molto duro: non era mai successo prima un editore, Paolo Berlusconi, e suo fratello Silvio condannati in primo grado per la pubblicazione di atti coperti del segreto istruttorio. Invece di condannare e indagare Berlusconi, i magistrati si avessero messo sotto inchiesta Fassino e compagni, forse oggi ci saremmo risparmiati lo scandalo Montepaschi. E poi scrive Sallusti: io sono orgoglioso di dirigere il giornale che 8 anni fa pubblicò quella intercettazione. Fassino invece si difende attaccando, dice in un'intervista per esempio a Repubblica: bene, è stata ristabilita la verità e la giustizia, mi auguro proprio di sì che sia chiusa questa vicenda, mi sono sempre chiesto perché ogni volta che il mio nome venisse accostato a quella frase, cioè abbiamo una banca, nessuno sentisse la necessità di ricordare che subito dopo in quella intercettazione ho detto abbiamo una banca, terzo, la banca naturalmente è vostra. Era solo quindi una battuta la mia, del tutto evidente. Finalmente questa sentenza ristabilisce verità e giustizia. Così parla il sindaco di Torino, che dice anche: ora mi aspetto che arrivino gli 80.000 euro di risarcimento del danno. Ah vabbè, insomma, quindi punta anche, come la sentenza ha scritto, a incassare il dovuto. Tutto questo si intreccia con una situazione politica dove, beh, la nebbia è la parola chiave, l'ha usata d'altronde lo stesso il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, cioè è stato paragonato ieri a un faro e quindi ha detto sì, certo, ma a volte si fa fatica a anche fare luce, seppure la metafora del faro è molto interessante, è molto laudativa, ha usato questo aggettivo Napolitano. Però nella nebbia si fatica a fare luce, tanto che se si vuole si può prenderla anche con il graffio di Iena in pagina 3 della Stampa per iniziare a raccontare l'attuale situazione di stallo della politica. Magari, scrive Iena, si potrebbe sperimentare l'anarchia, magari funziona. Ecco, non è, per carità, non esageriamo, non siamo in quella situazione, ma faticoso fare luce nella nebbia, questo è il titolo che trovate anche sul Sole 24 Ore, pagina 10, è l'attuale sentimento di Giorgio Napolitano, che ha rinunciato anche alla visita a Strasburgo per via della crisi di governo, una crisi di governo complessa. Tutti raccontano in retroscena, come Francesco Bei su Repubblica, come la strada davvero sia stretta. E c'è quella probabilmente di dare il mandato esplorativo a Pierluigi Bersani, che è il segretario della coalizione che, seppure di poco, ha vinto e quindi ha un maggior numero di parlamentari alla Camera. Ma in caso di insuccesso, scrive Repubblica pagina 9, Napolitano non sfoglierà altre margherite, non ci sarà alcun toto premier, perché un tecnico a Palazzo Chigi c'è già ed è del tutto inutile andare a inventare un ennesimo governo del presidente. Resterà al suo posto Mario Monti fino all'elezione del successore di Napolitano per il disbrigo degli affari correnti. E non è un caso se il premier abbia ripreso a consultarsi con i leader politici per creare una rete di sicurezza. Dunque, questa sarebbe la linea secondo Repubblica, ma sono tutte indiscrezioni, cioè si dà l'incarico a Bersani. Se Bersani non ce la fa a formare una maggioranza al Senato soprattutto e alla Camera, a quel punto il mandato di Napolitano scade e ci penserà il successore. Nel frattempo rimane al governo, no? Ho usato questo termine, è apparso di recente, la prorogatio di Mario Monti, la proroga a presidente del Consiglio di Mario Monti. Sarà così? Ovviamente accontentatevi di tutto quello che è una situazione in fiere, una situazione che ogni giorno si movimenta, ogni giorno cambia, e finché non si insediano le Camere settimana prossima e poi non partono le consultazioni tra due settimane, questi sono i tempi anche della politica. Qualcuno dice che sono tempi un po' melmosi, un po' barocchi, un po' ridondanti, soprattutto in una situazione di crisi, ma non è che si può cambiare la Costituzione in 448 e fare le cose così. Certo, Marzio Breda, quirinalista molto seguito sul Corriere della Sera, scrive che le ipotesi impossibili sono quelle del governo del presidente, e c'è anche questa frase catturata dallo staff del capo dello Stato: sarà un mese d'inferno. Questo lo trovate nel retroscena pagina 8, che racconta gli scenari possibili al Quirinale sul Corriere della Sera. Dall'altra parte c'è Grillo. Devo dire anche questa, l'avevo letta alle 6:30, io sono rimasto basito, ma la ripeto perché l'ho trovata su Libero, cioè un Bersani che scrive Libero: si arrende, potrei farmi da parte, ma è sempre anche qui retroscena. Sì, ma quello che scrive Libero con Tommaso Montesano è che potrebbe farsi da parte per lasciare il campo magari a qualcuno, ma magari a chi? Magari a Rosi Bindi. Ecco, io l'ho letta 4 volte, non ci volevo credere, ma questa, secondo Libero, almeno è uno degli scenari possibili. Bersani si fa da parte e lascia spazio a Rosi Bindi. Andiamo al traffico. Allora, dall'altra parte Beppe Grillo ieri in un post evidentemente è rimasto molto molto arrabbiato da quella vicenda successa da Barbara D'Urso, no? Dove si è presentato un rappresentante così presentato in TV del Movimento 5 Stelle, poi sui blog del Movimento 5 Stelle hanno detto ma no, non ci rappresenta, è un simpatizzante da pochi giorni, non è una persona titolata a parlare, insomma. Beppe Grillo ha fatto un altro post e ha fatto anche un'intervista al Time in cui ha tuonato contro i media italiani, ha detto varie cose, conduttori TV pagati per sputtanarci, poi ha parlato di riforma della TV, questa non è nuova, la dice varie volte, cioè vendere due reti Rai, una sola resti pubblica e senza pubblicità, rivedere le concessioni private. Poi ha fatto questo esempio di mutuando da Zanna Bianca, cioè l'ex comico assimila la tecnica dei giornalisti televisivi a quelli appunto nei racconti di Jack London, di quelli che attirano i lupi, che attirano i cani da slitta uno a uno per poi sbranarli nella foresta. Insomma, un Grillo che poi ha anche detto se falliamo noi ci sarà la violenza in strada. Ci sono ovviamente vari commenti, c'è anche però questa inchiesta dell'Espresso che io qua in copertina, viene ripresa da tutti i giornali, sull'autista di Beppe Grillo, la cognata di Beppe Grillo, cioè la sorella di sua moglie, e i 13 società in Costa Rica, 13 società per gestire affari, aprire un resort di lusso in un paradiso fiscale, promotori appunto, scrive l'Espresso, l'angelo custode di Grillo e la sorella della moglie. Al momento Grillo non ha detto nulla, non ha fatto alcun commento di questa vicenda, chissà se lo farà. Su Beppe Grillo però oggi torna sul Movimento 5 Stelle in un editoriale, ragazzi qua lo dovrò reincorniciare per la seconda volta, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia in prima pagina del Corriere della Sera, già l'altra volta l'ho ritagliato, l'ho incorniciato, lo farò anche questa volta, lo ritaglierò e lo incornicerò, perché Galli della Loggia torna sulla la vicenda del fatto che molti italiani hanno votato Movimento 5 Stelle, la scorsa volta aveva detto perché il disastro della politica, ora Galli della Loggia in prima pagina, il titolo è l'irrequieta diversità nella protesta nelle urne. Non sapendo dare una risposta a molti commentatori del perché molti italiani hanno votato 5 Stelle, si avanza immediatamente il sospetto di opportunismo, trasformismo, voltagabbanismo e quant'altro, ma in realtà, scrive Galli della Loggia, non conoscono queste persone la storia degli ultimi 30 anni dell'Italia. Un'Italia di cambiamento che alla disperata ricerca del modo in cui riuscire finalmente a mutare lo stato delle cose, uno strumento, un'idea, un varco, è così che da allora, da 20 anni, quella parte del paese di volta in volta ha guardato con simpatia al Partito Radicale, ha sperato in Craxi, si è schierata con Mario Segni, ha cercato di capire le ragioni della Lega, ha puntato inizialmente su Berlusconi, così come adesso fa un'apertura di credito a Grillo, ma vogliamo dirlo? Non identificandosi mai realmente con le scelte di volta in volta compiute, vedendone benissimo limiti e contraddizioni, ma sapendo sempre, se si vuole, illudendosi, di servirsene strumentalmente come una sorta di grimaldello. È ingenuità questa? Scrive Galli della Loggia. Certo, ingenuità, è facile dirlo, ma l'alternativa qual era? Una sola, evidentemente, stare dall'altra parte, dall'altra, cioè da chi, con chi fino ad oggi ha resistito e si è opposto ogni volta al cambiamento, si è adattato solo perché non poteva altrimenti. E infatti Galli della Loggia scrive, in conclusione del suo editoriale, dall'altra parte cosa c'era la vigilia di queste ultime elezioni? Il tetragono immobilismo di chi in 12 mesi non aveva trovato il modo di cancellare una legge elettorale nefanda o avviare la minima riforma istituzionale, l'insensibilità di chi in un anno intero non aveva mosso un dito per tagliare davvero costi e privilegi della politica, neppure per abolire una manciata di province, e come sola alternativa accreditata la presunzione che per governare bastino i conti in ordine. Prigioniera di un lungo passato tramutatosi in un eterno e soffocante presente, l'Italia del rinnovamento ha preferito chiudere gli occhi e fare un salto nel buio. Ecco, il salto nel buio è un po' la spiegazione, secondo Galli della Loggia, del perché molti hanno votato il Movimento 5 Stelle in alternativa all'immobilismo tetragono della vecchia politica. Oh, c'è un Massimo D'Alema arrabbiato, Cari ascoltatori, so che tutte le volte che vi cito Massimo D'Alema, a volte ve lo faccio anche ascoltare perché procura in molti di voi anche dei fastidi, ma chissà perché è così. No, basta far sentire 3 secondi di Massimo D'Alema e la gente alcune persone si indispongono. Oggi Massimo D'Alema prende carta e penna e scrive all'Unità, è arrabbiatissimo. dice: meno male che c'era la diretta streaming. È arrabbiato perché è stato accusato di avere detto alla direzione del partito di aprire inciuci con Berlusconi. Non c'è accusa che lo manda più in bestia di questo, no? E allora Massimo D'Alema scrive: faccia autocritica, per fortuna c'era la diretta streaming. Scrive al direttore dell'Unità, trovate la pagina in prima pagina, poi a pagina 4. Ora, scrive D'Alema, non è facile smentire ricostruzioni accurate, in generale io non smentisco mai nulla, ma in questo caso, grazie appunto alla diretta streaming, molti hanno potuto vedere e ascoltare. Ho spiegato le ragioni per le quali in Italia non è possibile che le maggiori forze del centro-sinistra e del centro-destra formino un governo insieme. Questo invece è possibile in altri paesi, in casi eccezionali avviene. Il fatto che in Italia non sia possibile non è positivo e con ogni evidenza una debolezza del nostro paese. Ma scusami, si rivolge così al direttore dell'Unità, se dico a te i lettori dell'Unità quanto ormai consideri insopportabile questa deformazione continua di quello che penso e quello che dico, che ormai mi spinge ai limiti di insidiare il mio diritto a prendere la parola. Ma d'altro canto ho sperimentato che neppure il silenzio mi mette al riparo dal rischio di deformazione. Inutile aggiungere che non ho tessuto nel mio discorso l'elogio dell'inciucio. Ormai, insomma, scrive D'Alema, è insopportabile subire queste mie deformazioni delle mie parole. Subisco deformazioni insopportabili. Tanto che mi sono quasi forzato a pensare a stare in silenzio. So già cosa state pensando, cari italiani. Allora, che c'è in chiusura? Devo dare questa notizia solo di cronaca, c'è tempo davvero pochissimi secondi. Ci sarebbe un video della morte di David Rossi, il responsabile di comunicazione del Monte Paschi Siena. Questa è la notizia che dà il Corriere della Sera con Fabrizio Massaro. C'è un video del corpo che cade a terra perché c'era una telecamera nelle viuzze attorno a Rocca Salimbeni, la sede del Monte Paschi, da dove si è buttato. E questa è la notizia più interessante, oltre al fatto della lunga telefonata, come raccontano tutti i giornali, fatta poco prima del suicidio. Con chi ha parlato David Rossi? Beh, è stato sequestrato tutto, tra cui il telefonino, e quindi immagino, voglio sperare, non sarà difficile scoprirlo. Vabbè, solo il titolo della Gazzetta oggi lo dobbiamo prendere, dire. Peter Bescapelli dice: ma sì, oggi diciamo che Bottenham! Che Bottenham, 3-0 l'Inter ha perso, che Bottenham, mentre la Lazio ha vinto 2-0, brava, ma che Bottenham però, vabbè, il giornale radio.